avanti, partenza via! Al mio segnale, scatenate l'inferno. Sfumeggiante! È il momento di fare casino! C-A-S-I? No! Mi dispiace! Lo faccio! No! Io sono tuo padre! Vi divertite a raccontare barzellette, a ridere e scherzare, eh? A stronzeggiare come un mucchio di scolarità alla ricreazione. Ah, beh, con qualche piccola clausola, però, è come dire, un paio di postille. E cioè? Regola numero uno, io non ammazzo. Quindi non chiederlo. Seconda regola del Fight Club. Non dovete parlare mai del Fight Club. Regola tre, non scomparire! Regola quattro, non barare! L'unico modo sensato di vivere è senza regole. Io là pilotavo gli elicotteri, guidavo un carro armato, rispondevo di attrezzature per milioni, ma non riesco neanche a trovare lavoro come parcheggiatore! Ma non penso sia necessario dire una frase banale o un cliché come se chiami la polizia sei morto. Coraggio, orribile figlia di puttana. Vieni da me. Coraggio! Adesso che stiamo a Milano, finalmente, vogliamo andare a vedere questo famoso Colosseo. Sì, signore! Dai la cera, togli la cera. Il respiro lo prendi con il naso e lo emetti dalla bocca. Dai la cera, togli la cera. Ma ci sto provando, Ringo. Ci sto provando con grande fatica a diventare pastore. Riconosco che è l'ipotesi più pessimistica. La distruzione potrebbe essere molto circoscritta e limitata alla nostra galassia. Domani è un altro giorno. Sì, sì, signore! Domani è un altro giorno. Sì, sì, signore! Sì, sì, signore! Quanta pazza!